E adesso credo che abbiamo tempo di subito cominciare e prego il professor Ago Di Maddalena di fare la sua introduzione. Comunque credo di avere la voce sufficientemente tonante, anche se non gioviale, da giove naturalmente, per parlare anche se... E per la registrazione. Ah, ho capito. Ma è proprio per l'affetto che nutro verso gli amici trentini, qui a Trento. Quindi mi scuso della banalità, delle sciocchezze, della superficialità del mio discorso, il quale ha soltanto lo scopo di introdurre i dibattiti successivi, sui quali eventualmente, se ce ne avrò le forze, penserò di intervenire chiedendo lumi più che dandone. Vorrei dire questo, tanto per introdurre la giornata. Lasciatemi fare una specie di ritorno indietro. Alla vigilia dell'ultimo conflitto, nelle aule della vecchia Bocconi, Università Bocconi di Milano, verso le quali non raramente torno con il pensiero e con una punta di inguaribile nostalgia, per la prima volta mi venne fatto di pormi interrogativi sottesi al tema che qui ci riunisce per operose giornate. Un tema che mi venne spontaneamente questo e prepotentemente alla bocca, alle labbra, 2 anni or sono, quando partecipai ad una operazione scientifica che, visti gli eccellenti risultati conseguiti, ha certamente contribuito ad accrescere i molti meriti accumulati da questo intraprendente istituto, sospinto da ferme e valide convinzioni e dall'entusiasmo di amministratori e responsabili Vandruzka, Prodi, Schiera in primo piano. Dopo aver ascoltato in quell'occasione le ottime relazioni italo-germaniche tendenti a porre a fuoco non poche esperienze e questioni riconducibili ai nessi tra politiche finanziarie e ragioni di Stato, giusto nei secoli in cui gli Stati intendono più incisivamente definire la loro ratio, o meglio le loro raziones, e ad essa o ad esse più rigorosamente adeguarvisi, mi sembrò, 2 anni fa, che sarebbe stato desiderabile allungare la traiettoria lungo la quale si erano sviluppati gli interessanti dibattiti sull'argomento allora discusso. Come dire, mi parve desiderabile che dal piano della ragione di Stato si passasse a considerare e discutere l'importanza e i risvolti di una ratio o di un complesso di raziones attribuibili a un difficilmente confutabile sovrastato, saldamente e persistentemente ancorato ad una piattaforma internazionale puntellata sul denaro. In effetti, proprio quando, scusate ma le cose le buttate giù nelle ultime ore sbagliando, eccetera, devo un po' recuperare quello che ho scritto. In effetti, proprio quando lo Stato mira ad affermare nel modo più ferreamente architettato la sua personalità, secondo le linee teoriche e le concrete sperimentazioni rapportabili appunto sotto la ragion di Stato, proprio quando gli incipienti e poi consacrati assolutismi, con l'imporre sino a limiti esasperati i valori e le figure nazionali o le configurazioni nazionali, paiono in un certo senso celebrare questi assolutismi le esequie degli universalismi, quello cattolico in primis, ridando corpo e vigore, ancorché in forme diverse e in dimensioni allargate, ai particolarismi. Non si dimentichi che l'asserito universalismo auspicato da Erasmo era di fatto un agglutinamento sotto un comune denominatore di culture, civiltà diverse, un cosmopolitismo, pertanto, cosa diversa dall'universalismo. Proprio quando, insomma, il dilatato ecumene del Cinquecento e del Seicento sembra suddividersi nettamente in scacchieri politici, etnici, culturali, religiosi e via dicendo, proprio allora sembra ancora prepotentemente proporsi, al di sopra delle compagini statuali così fiere e gelose dei propri diritti e dei propri peculiari propositi, una sorta di sovrastruttura inglobante, tenuta insieme da quel mastice incomparabile rappresentato dall'interesse economico, diciamo in maniera più rozza, ma tutto considerato più pregnante, dal denaro. Ma per la verità, una repubblica internazionale del denaro si era andata componendo e aveva già conseguito considerevoli successi nei due secoli precedenti l'avvento dei grandi stati nazionali unitari. Giusto appunto le lezioni conferenze saporiane di Armando Sapori, le letture di quegli anni ormai purtroppo lontani e nell'immediato dopoguerra i ripetuti, indimenticabili e così formativi incontri con Lucien Febvre e con Gino Luzzatto, uno straordinario maestro quest'ultimo per la sua singolare capacità di far emergere l'economico in tutta la sua dinamica coordinazione da ogni piega della storia, mi convinsero, e direi sempre più mi convincono, che auspici, soprattutto nei primi tempi, i fiorentini, i toscani, i lombardi, si vennero a instaurare vie più strette e convinte intese tra gli operatori non solo appartenenti ad una stessa comunità urbana, regionale, ma tra tutti coloro che s'avventuravano coraggiosamente lungo le perigliose rotte economiche internazionali. Mi pare fin troppo banale l'invito a riandare con il pensiero alla regolamentazione giuridico-amministrativa delle attività esercitate nell'ambito delle fiere mercantili, prima fra tutte quelle di Champagne. Certo è che quelle normative, via via perfezionate e codificate, costituiscono una testimonianza inconfutabile dello spirito e degli intendimenti che animavano gli operatori provenienti dalle più disparate contrade che sulle varie piazze convenivano per ingaggiare senza dubbio puntigliose tensioni economiche, ma per sostenere nel contempo la necessità di dar vita a più o meno celate alleanze, ad erigere comuni argini di difesa, onde la libertà d'azione fosse non fosse limitata dagli statuti, dalle legislazioni, dall'azione delle diverse, nelle diverse sedi in cui il loro giro d'affari internazionale andava sviluppandosi. È pur vero che ciascuna colonia di mercanti, ciascuna nazione, come pur si diceva, non mancava di stabilire rigorose norme che nell'imporre ai membri ben precisi doveri si proponevano da ultimo di garantire la colonia contro i soprusi delle altre nazioni convergenti e concorrenti sugli stessi mercati. Si pensi, per citare un caso celebre ed esemplare, ai noti statuti della colonia dei mercanti lucchesi di Bruges, che sono, come pare che sia forse lo statuto più significativo in proposito. Ma è altrettanto vero che tra gli operatori delle varie nazioni vigeva un sostanziale accordo di reciproca difesa nei confronti delle locali autorità. A ben guardare, lo stesso diritto di rappresaglia previsto e applicato nei confronti di operatori d'altre nazioni, se per un verso intendeva salvaguardare l'attività dei membri di una colonia contro l'azione tante volte scorretta e spregiudicata dei concorrenti, per un altro verso, e forse un verso più importante, costituiva un minaccioso monito per chi sconsideratamente contravveniva ad un'etica sovranazionale, internazionale, quella che doveva essere rispettata da tutti gli uomini d'affari e che ne sanciva dunque la solidarietà senza frontiere. Questa frase l'ho trovata su una lettera di un mercante tedesco della fine del 1300 a Milano. Solidarietà ohne Grenzen, senza frontiere. Una solidarietà che, operando attivamente per preservare una autonomia operativa alla quale avrebbero potuto attentare le singole istituzioni statuali nell'esercizio dei loro poteri e nella conduzione delle loro politiche, andò irresistibilmente plasmando una sorta di status, di ordo, nel quale naufragavano i municipalismi, i regionalismi, le peculiarità delle varie famiglie, colonie, nazioni impegnate sul fronte degli affari economici, per dar vita a poco ad una organizzazione sempre più nitidamente definita, internazionale. Di questa organizzazione non furono discussi, redatti e ufficialmente ratificati gli statuti, ma essa di fatto si costituì, si sviluppò, si perfezionò come se si reggesse su norme fondamentali da tutti i membri accettate e riconosciute. Un'organizzazione, insomma, che tacitamente assunse una fisionomia e una funzionalità assimilabili a quelle di uno Stato, un'istituzione e direi una costituzione dei vari Stati emergente e sui vari Stati sovrastante. In verbo pecunie si venne col tempo dunque nettamente profilando nei cieli europei, ancora turgidamente medievali, una respubblica infra et super nationes. Anche questa è una frase di un giurista trecentesco. Una respubblica alla quale paiono alludere certe preoccupate pagine scolastiche. percorse dai brividi di cupe profezie, quando la luna profana alta splenderà nel cielo, il sacro sole sarà tramontato. All'impero subentrerà la Repubblica. Di questa Repubblica si discorrerà qui, da oggi, considerandola prevalentemente nel periodo in cui essa dà la sensazione di toccare il suo apogeo. E sarà di grande interesse accostare alle voci latine, e metto anche il professor Otto tra le voci latine, anzi direi è il tréguignon tra le voci latine e le voci germaniche, quello dei nostri cari amici germanici. E però non si dimentichi che il gran commis di questa istituzione sovranazionale, che rispondono ai nomi altisonanti dei Fugger, dei Welser, degli Hochstetter, degli Spinola, dei Domellini, dei Di Negro, dei Ruiz e via dicendo, erano di fatto i discendenti di prosapie risalenti a 3-4 secoli prima. E appunto, con i più eminenti, è un disastro, con i più eminenti antenati di costoro, mi occorse di intrattenermi fin dagli anni resi così poco goliardici dall'uragano bellico, prima incombente e poi tanto paurosamente abbattutosi. Guidato dalla parola detta e scritta dei maestri che ho ricordato, fin da allora mi tornò spontaneo di vedere nei bonsignori, nei tifi, negli acciuoli, nei bardi, nei peruzzi, nei primi e secondi medici, insomma in tutti quegli straordinari uomini d'affari succedutisi per un arco temporale di circa 2 secoli, i progenitori di quella internazionale Repubblica del Denaro che tanto ebbe ad influire sulla storia del nostro continente, anzi sulle storie dei vari stati del nostro continente, città-stato, singole e federate, l'Ansa Germanica, ed embrioni dei futuri stati nazionali. Basti pensare come codesta già possente organizzazione influenzò le cadenze della guerra dei 100 anni. Attraverso una sagace politica di finanziamenti dei sovrani in lotta, con l'evidente proposito di assicurare globalmente gli affari esercitati dai sudditi della Repubblica. In proposito, è sintomatico ed emblematico il comportamento di alcuni potentati toscani ai vertici della policroma Repubblica. Da un lato i Peruzzi e i Bardi offrivano i loro servizi finanziari alla corona inglese, dall'altro lato gli acciaiuoli prestavano il loro denaro alla corona francese. Non è difficile vedere in questa contrapposizione di iniziative un intendimento repubblicano, un disegno operativo congruamente architettato dal defensore repubblice pecunie. Parimenti, non si può non essere portati a scorgere nelle imprese sviluppate principalmente dagli operatori toscani, fiorentini, allora certamente in primo piano, tra i reggitori supremi della tacita Repubblica, le imprese sviluppate da costoro sul suolo inglese, i cui proficui risultati non ci devono soltanto indurre a meditare su una ben studiata e determinata politica aziendalistica, ma ci debbono portare a essere questi dati considerati come le testimonianze di un non confessato, ma assai probabile tentativo di far soggiacere le sorti di uno Stato ai più fausti destini di un sovrastato, che del Fiorino, del Genovino, della lettera di cambio faceva le sue insegne, le sue bandiere. Era inevitabile come tutte le migliori famiglie, anche come tutte le migliori famiglie, anche la Repubblica del Denaro, e forse più giustificatamente, conoscesse dissidi, controversie, litigi, settarietà tra i suoi vari componenti. Lo stesso desiderio di primeggiare per controllare dal vertice la robustezza delle alleature e il funzionamento dell'organizzazione, in uno naturalmente con il desiderio di conseguire i più alti profitti, adeguatamente sfruttando, adeguatamente, il che voleva dire per lo più monopolisticamente o quasi monopolisticamente, le varie e mutevoli circostanze storiche e le congiunture di mercato, spiega le sorde e solitamente insanabili rivalità e i duri scontri che nel XVI secolo tennero impegnati i più rappresentativi personaggi dell'establishment commerciale e finanziario spagnolo e genovese. Scontri che non conobbero esclusione di colpi, che richiesero sottili accorgimenti e polso fermissimo. La ragion economica, diciamo la ragion di Repubblica, così come la ragion di Stato, non poteva che ispirarsi alle istruzioni del segretario fiorentino, per concludersi con una vittoria che ai genovesi diede le ali per raggiungere il loro zenit sugli orizzonti economici e finanziari internazionali, tanto che nella storia economica il lungo Cinquecento sarà il lungo secolo dei genovesi. Ma a fronte di questi inevitabili contrasti interni, registrati fin dai primordi, e tanto più acuitisi quanto più ci si rese conto dell'importanza di avere in mano i timoni di comando dell'istituzione, nella Repubblica i sudditi, residenti nelle più disparate e lontane contrate statuali, sempre credettero, e perché sopravvivesse non la Repubblica, non badarono ad accollarsi in comunione di intenti anche grossi sacrifici. Non è il caso che richiami i drammatici effetti del fallimento dei Bardi e dei Peruzzi, sul quale anche il Boccaccio non poté fare a meno di soffermarsi. Il fatto è Dalia. Il fatto arriva stesso che nel pauroso schianto rimanessero coinvolte praticamente tutte le compagnie commerciali e bancarie fiorentine e non poche case d'affari di altre città e regioni, sta invece proprio a provare la connessione, il coordinamento delle imprese. La caduta di aziende che nell'Organizzazione Internazionale degli Affari avevano una indiscussa leadership provoca una crisi della Repubblica completamente nella sua interezza. Una crisi che nel contempo reca soddisfazione, ma altresì grosse preoccupazioni ai concorrenti sodali di altre piazze. Se ne coglie qualche eco in documenti lombardi della metà del 300, ad esempio. Due secoli, beh certo che la metà del 300 è quell'epoca in cui avviene il colpo, due secoli più tardi la Repubblica Internazionale del Denaro si manifesta in tutta la sua sovrana, mi si passi il termine poco repubblicano, pienezza. Quando licenziati corrotti e infidi prestatori burocrati nazionali, il re di Francia, per far fronte alle crescenti ed imponenti esigenze finanziarie, si rivolge ad un consorzio di finanziatori, nel quale confluiscono operatori di varie stirpi e provenienze. Il Parti de Lyon ebbe a rappresentare una delle più palesi, clamorose epifanie di questo stato ombra, la cui potenza di fatto poneva in ombra la potenza delle singole nazioni, ormai mercantilisticamente impegnate a fare della potenza il fine primario della politica, o meglio delle politiche impostate e sviluppate. Potenza della Repubblica del Denaro che traeva l'alimento primo dalla inestinguibile solidarietà palesata dagli operatori economici delle differenti nazioni. Se avessi qualche anno di meno, non perderei un minuto di tempo per riordinare ed esplorare attentamente le carte sormani depositate or fa 2 anni all'Archivio di Stato di Milano dall'ultima discendente della famiglia, di questa famiglia milanese che nel 500 assurse a grandissima importanza sul piano mobiliare internazionale. Per quanto mi è stato possibile desumere dai rapidi attraverso rapidi sguardi gettati sul fondo casualmente venutomi tra le mani, il fondo fa parte dell'archivio Verri perché i sormani erano legati con i Verri, devo pensare che quei documenti potranno offrire memorie di eccezionale rilievo per ricostruire non solo più dettagliatamente le aggrovigliate vicende della bancarotta del Parti de Lyon in seguito alle note insolvenze della corona francese, ma per avere informazioni intorno a non pochi aspetti della nostra Repubblica. Per quel poco che mi è occorso di leggere, reputo in particolare che si potranno trovare preziose conferme della più volte ormai sottolineata mutua difesa organizzata dagli uomini d'affari nei vari paesi. Ci sono questi processi che poi vanno avanti, che sono veramente di un valore, come dire, paralitico, direi, incredibile. Esortano, gli stessi giudici esortano gli accusati a continuare nella loro opera di solidarietà, nonostante le eventuali perdite e, se vogliamo, ammende a cui andranno incontro per non aver osservato alcuni particolari obblighi. Ma non posso, eventualmente di questo discorrerò se qualcuno mi farà delle domande. Non mi pare che metta conto che insista nel portare esempi dell'esistenza e della persistenza di questa istituzione sovranazionale. Piuttosto vorrei, per concludere, redigere uno scheletrico elenco di problemi e di interrogativi che, come ho anticipato, fin dagli inizi della mia attività di studente, prima ancora che di studioso, mi si erano posti e che qui riaffiorano. Problemi ai quali spero che si ponga attenzione, interrogativi ai quali spero che si tenti di dare una qualche risposta nel corso di queste giornate di riflessione. In primo luogo, e proprio in relazione in proseguimento di quanto è stato discusso or fa 2 anni, mi chiedo, ci è dato di poter stabilire se e fino a qual punto gli stati di formazione lato sensu comunale, quelli di formazione e costituzione lato sensu signorile e da ultimo ed in specie i grandi stati unitari e nazionali si posero, come si posero e si comportarono vis-à-vis del sovrastante stato germinato e nutrito dal denaro? E per riferirmi più puntualmente al tema dello scorso simposio, la genesi e la piena affermazione della ragion di Stato ebbe a trovare nelle ragioni che giustificavano e qualificavano la tacita istituzione composita e sovrastante una propedeutica e stimolante esemplificazione, oppure un argine, un impedimento, un ostacolo che sarebbe occorso indebolire, o meglio addirittura rimuovere? Tra ragion di Stato e ragion di Repubblica, per intenderci, ci fu confronto o integrazione? E questo fondamentale rapporto, che dovrebbe essere delineato e chiarito, si instaurò in modo analogo o diverso nel mondo mediterraneo latino e in quello in larga accezione germanico? Una implicazione derivante, discendente da questa questione, mi sembra poi di grosso rilievo. Non v'è dubbio che alla formazione degli stati, nelle loro successive configurazioni, diedero un apporto fondamentale e qualificante personaggi, famiglie, aziende, senso lato, emergenti dai ceti economici. Ebbene, come riuscirono tutti questi coprogettisti dello Stato, e in particolare di quello moderno e mercantilistico, a coniugare l'azione sviluppata a livello nazionale con quella sviluppata a livello internazionale e addirittura sovranazionale? Come poterono associarsi le due etiche? E questa associazione, come e quanto trasse benefici e svantaggi, in particolare dalle dissociazioni confessionali che con l'inizio del Cinquecento in modo così ampio e profondo si manifestarono nelle plaghe germaniche e più in generale nel mondo centro-occidentale europeo? Giulio Mandic, in una eccellente relazione che ho avuto la gioia di leggere e che testimonia della padronanza da lui acquisita in una vita di duro e nobile lavoro scientifico, ci dà la possibilità di penetrare nei meandri di una tecnica operativa ad alta fattura, grazie alla quale l'organismo sovranazionale finanziario ottenne un ritmo di funzionamento oltremodo redditizio. Varrebbe la pena, sotto questo profilo, di stabilire quando, come e perché questi criteri operativi divennero, in aggiunta a tante altre circostanze, una sorta di catalizzatore e di Bibbia delle comuni aspirazioni di coloro che sarebbero stati i cosmopoliti cittadini della nostra Repubblica. E sarebbe altresì interessante evidenziare i momenti storici e logici per cui i sistemi operativi, le tecniche, videro realizzarsi dei salti di qualità, dei sostanziali perfezionamenti, senza dire che sarebbe interessante non soltanto indugiare sul modus agendi, operandi, cogitandi in sede squisitamente finanziaria, ma accostare le linee dei giochi, delle manipolazioni del denaro inteso nella sua specificità, cioè come moneta effettiva o come moneta fiduciaria, alle tecniche operative applicate ad altri beni materiali e immateriali. Si pensi per esempio a caso delle differenze tra i mercati di Anversa e i mercati di Amsterdam. Qui sono arrivate le 8:30, io stavo battendo a macchina e non sono più andato avanti. Credo che sia però sufficiente quello che ho detto per dare una spinta ai nostri lavori. Grazie. grazie per la